Blue Radio. Blue Radio. SMS 346 23 20 033. Blue Radio. Blue Radio. Blue Radio Sera. Blue Radio Sera. Rieccoci ancora qui come al solito il giovedì sera in questa fascia oraria chiamata Blue Radio Sera. In cosa consiste questa fascia? Consiste nell'ascoltare musica ovviamente dalle 21 alle 22.30, ma molto spesso ascolteremo le voci dei vari artisti che ci vengono a trovare e fanno una suonata in acustico, un'intervista qui, e anche questa sera sarà così. Buonasera dal sottoscritto Agostino Spoltore, che vi terrà compagnia con Maurizio Calzavara per questa ora e mezza. Questa è Blue Radio Veneto, le nostre frequenze 88 e 700 oppure 94 e 600. Se ci volete raggiungere telefonicamente, vi ricordo il nostro numero telefonico, che è lo 049 875 6423. Avete poc'anzi sentito anche lo stacchetto degli SMS, ve lo ricordo ancora un'altra volta. Se ci volete mandare qualche messaggio, così potremo leggere anche per l'artista, allora il nostro numero per gli SMS è il 346 23 20 0 33. Abbiamo un sito, il nostro sito è blueradioveneto.it, dove potete leggere le recensioni che mettiamo su ogni artista ogni settimana, che si sussegue, quindi potete leggere di tutto e di più. E oltretutto, cliccando lì sotto l'artista, in questo caso quello che sarà questa sera, potete ascoltarci sia in diretta streaming, cioè tramite internet, e sia anche potete vedere l'artista che tra poco, ripeto, presenteremo. E abbiamo anche il nostro la nostra pagina su Facebook, e ovviamente blueradioveneto.it, e poi abbiamo anche il Rockwave, cioè blueradioveneto.rockwave. Quello è per chi ama il rock, lì potete trovare tutti gli eventi che si susseguono durante l'arco della settimana. Buonasera Maurizio. Buonasera Agostino e buonasera ai nostri ascoltatori. Sei ancora messo così? Sì, tu? C'è una piccola tosse che continua, che va e viene. Consolati, anch'io lo sono molto messo meglio di te. Allora, abbiamo un ospite simpaticissimo, un carissimo amico che ci è venuto a trovare questa sera. Ciao, Fortu. Ciao a tutti e vi ringrazio dell'ospitalità e di tutto quanto. Ringrazio sia Agostino che Maurizio. Benissimo. Fortu, non è un nome che non conosciamo. Fortu lo conosciamo perché? Ma facciamo un po' di storia. Dall'inizio, io ho letto nella tua biografia che hai cominciato e hai tentato felicemente di arrivare ai fraseggi di Iron Maiden, cioè alla chitarra. Com'è nato il discorso della chitarra? No, praticamente sì, quando si incomincia a suonare, il primo passo è la chitarra acustica, no? Dopo però il secondo passo è sicuramente la chitarra elettrica. Esattamente. Io avevo per un milione una Fender Fuchsia. Milione dell'epoca. Dell'epoca, sì. Bella Fuchsia, una Fender Fuchsia. Sì, infatti io ho detto, ma questa sicuramente non ce l'ha nessuno. Bene. Dopo ho capito il perché. No, perché sempre un po', perché volevo distinguermi, hai capito? E si prende sta cosa e vabbè, ma ti segna, sono cose che ti segnano. Però hai cominciato con sta Fender Fuchsia. Sì, però tutti incominciano a fare riff, vai nei negozi musicali e tutti incominciano a suonare riff, tipo, ma sono sempre i soliti, un tastierista farà The Final Countdown degli Europe. E per far vedere che sanno suonare fanno Stairway to Heaven. Io che vado contro, ho detto non lo farò mai. Mai, esattamente. Facevo invece Smoke on the Water, che era molto più semplice e aveva sempre il suo bel impatto. Ma tu lo sai meglio di me, in certi negozi inglesi o in certi negozi americani, quelli che vendono le chitarre vietano ai musicisti di suonare Smoke on the Water, perché sì, se ne può più. Sarà anche su un film, No Stairway to Heaven, mi ricordo. Fusi di testa, forse. Una cosa. Quindi hai cominciato così, con Smoke on the Water di Deep Purple. Questo riff... Sì, quello più semplice. Più semplice. E lì si può dire che mi sono fermato, tre accordi e li porto avanti da anni. Però Stairway to Heaven riuscirei prima o poi a farla? Ma anche no. Ma anche no. Pensati che una quindicina di giorni fa è venuta qui una cantante jazz, l'ha improvvisata in una maniera così semplice. Ma guarda, è bellissima anche fatta così semplicemente, insomma. No, ma a me piace, sai, però è bello ascoltarla. Certo. Cioè, i Led Zeppelin si sono sciolti nell'80 pur di non farla più, cioè. Addirittura. Benissimo, allora hai cominciato con questi ardimenti musicali. E poi com'è stata l'idea di fare una band? Non parliamo della band che poi cui sei stato protagonista, ma prima c'è stata una pre-band, cioè ci sono state delle unioni con qualche ragazzo per fare qualcosa? Sì, avevo fatto con Flavio, che saluto anche se è un po' che non lo sento, avevo fatto un gruppo, io e lui abbiamo registrato uno dei primi, a registrare con batteria finta, cose sì. del genere, per su uno studio. Cioè, un anno ci abbiamo impiegato a fare quel CD. Ah, una specie di EP, qualcosa, un demo? No, no, no, era un demo, si chiamava Mare Senza Stagione, da cui appunto dopo sentiremo due pezzi. E abbiamo fatto 10 anni fa, nel 2000, un anno. E abbiamo fatto io e lui sta cosa, con un ragazzo ci dava la mano a suonare il basso. Dopo purtroppo, anche un po' per colpa mia, devo essere sincero, i Renoir, con cui avevo cominciato a suonare, avevano cominciato ad andare su. E là ho fatto forse l'errore di lasciare un po' stare, anche perché adesso effettivamente mi trovo a mio agio a cantare, a suonare. All'epoca effettivamente era una cosa un po', preferivo far parte, essere no al centro, essere di lato. Un po' di... Ma quando qualcuno ti ha chiesto, ti ha fatto questa domanda, vorrei fare un gruppo che mi dai una mano, perché Renoir? Perché è nato il progetto Renoir praticamente? È stata da un'idea di Paolo, che era ragazzo, siamo sì, molto amico tuo. Sì. E niente, lui voleva fare un gruppo, cercava gente, a un certo punto il batterista Orso è nato da lui, io c'ero già, e da là è nato il gruppo. È un gruppo che è importante, significativamente importante dal punto di vista dell'indie rock. Ha avuto numerose recensioni positive, ha smosso notevolmente, in modo positivo ripeto, il mercato dal punto di vista delle recensioni, non so dal punto di vista delle vendite, questo non lo so. Dal punto di vista delle vendite non lo so neanch'io, sono sincero, non lo so. Però dal punto di vista delle recensioni è stato positivamente accolto. Il primo disco soprattutto è molto, molto disco, bene. Esattamente. Beh, il primo disco c'era Insonnia Paranoica, siamo andati anche un grande su, singolo. Sì, su MTV, no, sì, MTV, All Music, Radio DJ, un tanto di cose, un sacco di dopo cose. Però i gruppi sono i gruppi, nonostante le 25.000 persone che avete avuto con la tournée di Vasco. Abbiamo aperto un concerto di Vasco nel 2001, lo Stupido Hotel Tour. Te lo ricordi ancora quel concerto? È indimenticabile. Sai perché anche me lo ricordo? Sì. Perché eravamo tanto sprovveduti che siamo andati là ad Ancona, senza prenotare l'albergo. Ah, perfetto. Siamo andati là senza avere minimamente persone che ci potessero fare foto, se non, cioè, non abbiamo una foto, non abbiamo niente. C'è una cosa incredibile sta cosa. Siamo andati là, in quattro siamo arrivati. È stata una cosa, sai, il giorno prima abbiamo suonato a una festa, tipo una festa a Dolo, davanti alle solite feste delle birre. Il giorno dopo abbiamo suonato alla festa a Dolo. E il giorno prima abbiamo fatto sta cosa di Vasco. Che effetto ti ha fatto, Fortu, che effetto ti ha fatto per essere così, prima del mitico Vasco? Ma sai che è successo talmente tanto, mi ricordo più le fasi del concorso che abbiamo vinto per aprire. Il concerto è stato talmente una cosa che va in automatismo, talmente grande, che non ti sei reso conto di quello non che... abbiamo foto, abbiamo, insomma, è stato un momento troppo importante, troppo grande, che non forse troppo tanto non abbiamo neanche conosciuto Vasco dopo. Questa è bella, la racconto, perché eravamo fuori del camerino, alla fine c'erano tutti, ovviamente come primi entrano i raccomandati, si sa così. No, anzi, come prime le ragazze sempre. Veniva proprio la guardia del corpo, tu così. Certo. No, è vero. Dopo praticamente sono gli amici dell'avvocato, del suo avvocato, sono entrati. Alla fine siamo rimasti noi e un tipo vestito da spadaccino, non sto scherzando, tipo D'Artagnan. Questo seguiva tutte le date del tour, era lì vicino a noi con questa spada che io lo guardavo e facevo timore. Vabbè, faceva timore. Alla fine ha detto, ma vedo che vanno via tutti e Vasco. E ragazzi, Vasco, il problema è che questo qua gli rompe sempre e se n'è andato. Quindi noi, secondo me che sti qua pensavano che fossimo, non so, gli altri 5-6 moschettieri, certo. Se n'è andato. E io, ma lasciamo perdere. Okay. Tanto è sempre stato il mio idolo lui, cioè una cosa... Per uno vestito da D'Artagnan, cioè incredibile. Allora, ci ascoltiamo una canzone. Sì, esatto, chiusa la parentesi, sentiamo il primo pezzo dal disco, poi parliamo del tuo disco. Che è Delicatamente, che è dei Rosa Croce, proprio il mio primo del 2000. Ok. We'll be right back. delicatamente amore, delicatamente amore, abbiamo cominciato in maniera dolce questa cavalcata assieme a, alla musica di, del nostro amico Fortu. Maniera dolce, eh? Anche la stessa, lo stesso titolo, delicatamente. Perché? E dopo facciamo un po' di spacco orecchie. Dopo sì, dopo muoviamo. Perché questa scelta? Perché delicatamente è una delle prime canzoni appunto che avevo fatto anni fa. È stato un po' il punto di svolta, perché prima effettivamente non concepivo una canzone che non fosse triste. Ah. Cioè, questa è la realtà. Tutto, io facevo un depressive pop. Evidentemente Masini andava molto di voga. Con delicatamente, effettivamente, c'è stata una svolta. È stata un'armonia in maggiore, comunque un testo delicato, una bella musica sotto, anche se comunque un tempo medio. E da là, effettivamente, ho incominciato a pensare che anche se magari il tema della canzone non è proprio magari allegro, però non proprio deprimere, cioè non fare in modo che la gente si suicidi. Una cosa del genere. E delicatamente, quando ho ripreso poi, è stato un po' anni dopo, perché avevo accantonato con i Renoir, è stato un po' il mio punto di partenza, cercare di fare canzoni, raccontare storie, cose del genere, non, anche se magari le storie non sono allegrissime, però mai dare, cioè sempre con una base di ottimismo, secondo me. Certo. E delicatamente è stato proprio questo. Difatti delicatamente abbiamo scritto nella recensione, non è proprio un titolo delicato, cioè anche musicalmente non è proprio un pezzo delicato, è un po' mosso, un pop un po' mosso, con qualche frase della solista che si sente. Sì, come tu giustamente hai detto, era una rampa di lancio per fare un discorso leggermente diverso. Quindi l'inizio di un discorso solista praticamente dopo i Renoir. Si può dire di sì, infatti è stata l'ultima canzone che ho fatto all'epoca e la prima da cui sono ripartito. Ed è anche, diciamo, nel corso degli anni, con Vorrei, una delle canzoni che tuttora ripropongo, che faccio sentire e che alla gente piace effettivamente molto. Quindi un discorso, adesso arriviamo al discorso solista dopo dei post Renoir. Ti sei messo nel tuo studio di registrazione, hai provato, hai costruito dei pezzi per parecchio tempo. Il problema è stato questo: quando i Renoir si sono sciolti, quando si scioglie una cosa, effettivamente, dopo anni, non hai più tanta voglia di continuare cose del genere. Io la strumentazione dovevo venderla. Dopo infatti non andavo mai dall'Orso, che avevo ampli, testate a cassa, cose del genere, non andavo mai a prenderla perché non volevo averla a casa. Dopo ho pensato, ma sì, ci riproviamo un'altra volta, portato nel negozio di musica, ho fatto uno scambio con un aggeggio per registrare una chitarra, una cosa del genere, una chitarra acustica che fino allora non avevo, e mi sono messo là a mettere con queste manopole. Ho preso un mixer, una cosa di quel genere. È un multitraccia per registrare una cosa tecnologicamente avanzata, anche se adesso è superata dai computer, però io con i computer ci faccio altro, quindi non voglio, cioè io voglio, non so, mi sembra, anche se farei sicuramente meno fatica a registrare col computer, io voglio sto coso. Mi sono convinto che se non ho sto coso non mi viene più una canzone. Cioè, sai, questa macchina che hai comprato, questo multitraccia, e dal multitraccia hai costruito i tuoi pezzi. Sì, i primi non avevo neanche un microfono, cantavo, c'aveva sto aggeggio, c'aveva un microfono, cantavo così alla faccia del diaframma, delle cose, ma figurati. Il basso non ce l'avevo, usavo la chitarra acustica, facevo il basso con un emulatore di suono, e infatti una canzone farò dopo in acustico a 1000 lire, una delle prime, l'avevo proprio registrata una qualità abbastanza infima, però alla fine se una canzone piace, e a me piace, l'importante è che piace a me, anche se non si sente benissimo, cioè, che gli standard sono che deve essere tutto perfetto, cose del genere. Però io mi ricordo quel disco di Alex Britti, il suo primo disco è stato fatto in un appartamento di Milano in una settimana. È venduto a parte, vabbè, a parte quello che ha venduto è bello. E lo Five? È lo Five, però five. Cioè è bello. È alla bello, fine, sì, hanno un certo fascino. Alla faccia delle produzioni miliardarie. Certo, sono d'accordo con te, ma così si riesce a crescere. Esatto. E quello è il motivo. A proposito di crescere, c'è la Chiara che sta fotografando. Ringraziamo la Chiara che è qui vicino. E fa parte ormai dello staff. C'è anche sistemato le telecamere. Hai visto, ormai. Benissimo. Cosa allora, dici Fortu? Mettiamo un altro pezzo del disco? Sì, romantico. Okay. Romantico è proprio il concetto che volevo dire prima delicatamente. È un po' l'opposto mio di quello, cioè è un po' come dire dal pop depressive a, no, a non prendersi seriamente. Questo è romantico. L'ascoltiamo? Sì. Ascolto finto punk e pop allergico, scrivo canzoni da pullman scolastico, e quando ballo sai sono fantastico, ma se poi bevo boom divento elettrico, sbadiglio in pista in sotto un DJ plastico, iconoclastico e blu sintetico. E se mai vorrai convincermi di crescere anche tu, forse non senti che rido ancora di più. Se non ci sei tu, baby, il cielo è sempre blu. Sono un romantico, un caso clinico, rimpiango un gruppo rap dal nome artistico. Guardo la pioggia e penso sia patetico parlare d'amore quando il cuore è tossico. A volte sclero, certo, ma è un classico. Dice cattivo e già mi sta simpatico. Spento il cervello, oggi entro in sciopero, alzo il volume e canto, vado al massimo. E se mai vorrai convincermi di crescere anche tu, forse non senti che rido ancora di più. E allora si saprà convincerti che anche se non ci sei tu, vedi, il cielo è sempre blu. Radio Sera. Blu Radio Sera. Sono le 21 passate da 24 minuti, questa è sempre Blu Radio Veneto. Vi ricordo il nostro numero di SMS se ci volete mandare qualche messaggio, anche per salutare, ovviamente per fare qualche domanda se volete al nostro caro amico Fortu. Allora, 346 23 20 033. Lo ripeto, 346 23 20 033. E Fortu, l'anima romantico punk in questo pezzo praticamente, sì. C'è un po' di punk, c'è un po' di rock nascosto. Scherzoso. Anche se dopo effettivamente alla fine, quando si sente, che parlavamo prima, l'effetto scatolato sulla voce. Esatto, ecco, parliamo un momento della voce, come è venuta fuori questo effetto, come l'effetto scatolato è venuto fuori semplicemente, io avevo in testa cosa volevo fare, assolutamente non ero in grado. Quindi mi sono messo là con questi parametrici. E se c'è Orso che sta ascoltando starà ridendo perché vabbè. E mi sono messo qua a fare queste manopole, cose del genere, mi sono messo a provare a tentativi. Ecco come sto arrivando io, a tentativi. È la mia definizione di musica. Cioè lentamente. Lentamente, a tentativi si prova, un passo avanti. Anche sta canzone qua, che a me effettivamente, lo dico anche alla fine, mi preferisci se sono romantico, col cuore tenero. Però dico anche, quando ho la luna dedico un cantico e voglio solo ciò che dimentico. Questa è una frase effettivamente seria, detta però in un contesto così perde un po', cioè, però il messaggio arriva lo stesso, però arriva col sorriso. C'è un po' di ironia, ci vuole grande. Sempre, ci vuole sempre secondo me. Dobbiamo sottolineare una cosa, questi sono i pezzi che tu hai scritto, che probabilmente faranno parte di un disco che uscirà il prossimo anno. Però certo. Sono dei pezzi nuovi praticamente. Pezzi nuovi, sì. Sto un po' vagliando anche cosa fare, quale metterci dentro, quale no. Comunque anche questo qua, chi mi conosce, magari questo un po' meno. Però dopo arriviamo su canzoni tipo PS che conosco, scusami se, che conoscono sicuramente. Certamente. Chi comunque mi ascolta. Da un po' di tempo. Sì, esatto. Chiaramente. Quindi è un bagaglio di canzoni che ne hai parecchie, mi dicevi al microfono spento, pronte, stai vagliando quali canzoni scegliere per poi svilupparle e metterle, inciderle effettivamente. Anche perché adesso il problema, anche con le nuove tecnologie, non è fare un disco, è cosa farci dopo del disco. Ah, ho capito. Il problema sta qua a vedere. Disco è semplice farlo praticamente. Adesso come adesso non è più come una volta. Adesso anche con la tecnologia che ti viene incontro, obiettivamente, se uno non ha tanti soldi da spendere può fare tranquillamente. Tutte queste canzoni sono fatte a casa mia. Certo, nel tuo studio praticamente. Nel mio studio in 2 anni, ma non è una cosa che dici. Sono cose, vabbè, un po' alla volta si acquista materiale, cose del genere. Ma possono farlo tranquillamente tutti. Certamente. E quindi non serve una casa discografica, è quello discorso. Però serve la promozione. Serve una casa discografica se è utile alla causa. Ah, ho se capito. No, non serve. Se no, niente. Non serve assolutamente. A niente. Si autoproduce. Tutto. Si autoproduce e cerchi il modo. È fare il modo di farlo conoscere, perché tu puoi fare la musica più bella di questa terra. Ma se Pino di Napoli non sa che c'è sta canzone, capito? Come però, in Calabria. Però c'è una tua, come dire, fans, chiamiamolo così, una cantante della zona di Milano, che ti manda a salutare, si chiama Vale Britt e sta ascoltando l'intervista, ti manda che un caro saluto di anche cuore. A tutti noi di Blu Radio Veneto, anche a te Maurizio. Grazie. Allora, dove eravamo rimasti? Che faccio un pezzo, allora faccio un pezzo di sta canzone che è Cleo. Questa canzone qua è stata la prima che mi sono reso conto che internet è un ottimo veicolo per far sentire. Io questa canzone l'ho fatta con Anna nell'ultimo periodo di citiamo chi è Anna praticamente. Anna è la canzone nell'ultimo anno di Renoir. Il cantante Paolo se n'è andato, è arrivata Anna, mi ha fatto un anno e io ed Anna abbiamo fatto sto pezzo che si chiama Cleo, che dopo sentiremo con la versione da io disco. Adesso accenno un po' con l'acustica e dopo vorrei farvi sentire con la voce di Anna. Ok. Blu Radio Sera. Ricordi ancora le parole del vecchio che guardava il mare, son lacrime di lana bimba, ti scalderanno e sarai donna, sul corpo sale caldo che non si scioglie, in testa una canzone in re, piano scorre. Offro una ragione in più, farla ridere in silenzio. Cleo adesso guarda su, dolce suono del suo pianto. Ok, questa è la versione acustica. Come è nata? Manca la voce di Anna, adesso sentiamo anche, la voce di Anna, così facciamo un piccolo raffronto, esatto. Una piccola diversità, certo. Ok? L'ascoltiamo? Certo. Esatto. Ok. C'è nella nebbia blu. ricordi ancora le parole del vecchio che guardava il mare. Son lacrime di lana bimba, ti scalderanno e sarai donna. Sul corpo sale caldo che non si scioglie. Suono del suo pianto, offro una ragione in più, farla ridere in silenzio. Cleo adesso guarda su, Venezia adesso al suo volto. Faccio tenue e scorderai. Sul corpo sale caldo che no, non si scioglie. In testa una canzone in re che piano scorre. Offro una ragione in più, farla ridere in silenzio. Cleo adesso guarda giù, dolce suono del suo pianto, e offro una ragione in più, farla ridere in silenzio. Cleo adesso guarda su, Venezia adesso al suo volto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Se andate nel nostro sito di Blu Radio Veneto troverete la recensione che Maurizio ha fatto su, appunto, su Fortu, che abbiamo qui questa sera. Ma sotto, proprio sotto, c'è il link per poterlo anche vedere, oltre che sentire in streaming. Potete vederlo, quindi tutto il mondo può vedere Fortu che sta cantando, che sta parlando, che sta rispondendo alle domande. Comunque sia, se non andate lì, potete comunque digitare www.direttarockwave.altervista.org. Quello è il link per andare a vedere poi il nostro caro amato Fortu, che così lo vedete anche mentre si esibisce, insomma. Anche in Cina e anche in Giappone. Anche in Cina e in Giappone. Sì. Certamente, non ci sono tutto. Confini praticamente. Diventa international. Ah, è bellissimo, sai, questa cosa è molto bella. Sì, è molto Io bello. Mi ricordo una sera, non per dire, ma eravamo qui in trasmissione, c'è stato un contatto dal Brasile e uno dalla Polonia. pazzesco, guarda, sono, pazzesco. Cose... sono cose meravigliose. Se è fatto bene internet, io sono profondamente convinto che sia una cosa straordinaria. E Fortu, parliamo un momento di questa Cleo, che è molto bella. Tu hai detto a microfono spento, era una canzone che risaliva all'ultimo momento di Renoir, è una canzone veloce che hai deciso assieme ad Anna di rallentare. Sì, perché praticamente quando abbiamo fatto la versione con tutto il gruppo, mi ricordo Giovanni fa, però ragazzi è un po' troppo veloce. Effettivamente era un po' troppo veloce, è stata una fortuna però, sì, che abbiamo fatto, perché alla fine la versione che è più apprezzata è questa qua, anzi quella al 90% conosciuta è sta qua. Io ho detto, se una canzone è bella, e spero sia bella, è bella chitarra acustica e voce, da fare in spiaggia. Certo. Le canzoni che vanno in spiaggia sono gli immortali, quelli immortali che non sbaglieranno, sì, mai. Esattamente. Esatto. E una cosa volevo chiederti, sì, è una canzone scheletrica, molto scheletrica, sì, e giustamente come tu hai detto a microfono spento, Anna dà la melodia, dà proprio quell'input necessario perché la canzone vada. Brava, questa è bravo. Anna è stata brava perché si vede che aveva proprio la musicalità, lei ascolta molta musica yo-yo, quelle cose, sai. Cioè? Cosa vuol dire? Yo-yo. Cioè abbastanza... rapper, quelle, sì, cose, sì, con, vedi i video con i macchinoni. Ah, ho capito. Però hanno classica americana. Sì, esatto. Hanno il ritornello molto orecchiabile. Secondo me Anna prende molto, diciamo, quella melodia. E infatti sta canzone è melodica. È molto melodica. Ma a me piace, sì, molto. È veramente, sì, infatti ho fatto sentire la canzone dove canta lei apposta, perché... perché la voce femminile cattura immediatamente. Poi il duo che fa, te Anna, che... sì, dopo io ho fatto sentire anche un pezzo di io che la suono, sì, perché mi piace sentirmi dire dopo, no, è meglio che la canta Anna. Sono un po'... mi piace. Ho capito. Ok, adesso abbiamo deciso, Agostino, tu hai anche la scaletta, di fare un pezzo live acustico. Live acustico, che è 1000 lire. Non è a caso questa cosa qua, perché le penso, sembro stupido per chi mi ascolta, ma qua c'è 1000 lire, che a me piace quando parlo di un personaggio, Cleo, tipo in questo caso, seguirlo, che sono tutte persone reali, sì, seguirle nel corso degli anni, mai riconosciute a 20 anni, 15, su 1000 lire torna Cleo. Non è che si veda come va a finire, è un altro pezzo di vita suo. Perché comunque alla fine, come ho detto, sono persone che anche se non fanno parte costante della mia vita ci sono sempre, cioè ci facciamo in parallelo lo stesso percorso, non ci aspettiamo mai, però ci vediamo, ci facciamo ciao con la mano, cose del flash, dei flash, l'importante è comunque sapere che io ci sono e che lei c'è. Certo. E quindi come si chiama questa canzone? 1000 lire. Blu Radio Sera. Fuochi nel cielo in fiera, Cleo compra ricordi che durano un'ora. Con 1000 lire che usa in un cassetto, tra la gente che guarda distratta all'insù, rivede l'orchestrina di pinguini blu. Dicevi tu, e corre veloce verso quella vetrina, c'è ancora la maglietta con la scritta viola. E si alza sulle punte, arrossendo come allora. Lo spettacolo avanza, però il pubblico assente, e ad ogni fotogramma c'è una stella cadente. Si infrange tra le ore, forse è cresciuta troppo in fretta in quel vestito a pois, ma ora che l'è stretto un po' le mancherà confondere il sesso con la felicità. E trova il vecchio pazzo dietro un bancone che serve vita al succo di limone. Torna a casa signorina, che la notte è un po' puttana. Na na na. Notte che sfuma nel fischio di una canzone, Cleo aspetta in silenzio il grande finale. Con due valigie pronte per partire, e lancia una moneta in fondo al mare, lucente souvenir di questo amore che sa un po' di sale. Ma sente uno di stupore, si gira, è un lampo che può far male e prima o poi scompare, lasciando solo na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Forse il segreto è tutto qua, notte di mele che cadono in testa alla gente, di un verde acerbo, ma presto saranno rosse. E coi tre botti di testa o croce. Bellissimo. Proprio bellissimo. Cantautorale al 100%. Al 100%. Sembrava sì, sì. Il vecchio Lucio Battisti. Esattamente. Un po' battistiana, un cosa po' dici, sì. Fortu? Sì. Mi piace, anche il primo Vasco Rossi, primo quelle Vasco. Cose, sì. Quando ci sono accordi, melodie semplici, a me piace così, cioè, non sono fatto, anche se ho trascorsi rock col distorsore a palla, a me piace più queste cose qua, a me piace raccontare storie, anche sussurrate, non proprio, perché ho come idea che uno quando urla perché non c'è niente da dire. Ah. Perché se io no, il problema secondo me è questo qua, che se io urlo è anche per fare in modo che la gente di fronte dica così e quindi non sta più attenta. Beh, ma uno potrebbe anche essere che vuole far sentire la potenza della sua voce, cioè nell'urlo sai. Ah, del buon e sano esibizionismo. Sì, beh, ovvio. È comunque sempre fatto in quel senso lì. Sì, no, capisco. C'è chi lo fa bene e chi non lo fa bene. Negli anni 70, 60 c'erano gli urlatori, cose. Cioè, se sei buono ti tirano le pietre. Antoine. A me ne hanno tirate tante. Sì. C'era male anche. Ma a parte pietre, hanno tirato di tutto. Ma anche quello fa crescere, tirare di tutto, secondo infatti, me. Su un monologo mi hanno detto che dopo sparo ci sia il tempo, dico, l'importante comunque è cadere ma rialzarsi fieramente. Tutto, giustamente, sempre. Anche se ci tirano fa tutto crescere, sì, esatto. Anche se ti tirano le pietre o qualche altro oggetto, cosa vuol dire? Bisogna andare avanti sempre, in caso. Sempre. Ok, sono le 21.43 quasi, Agostino, siamo sempre con Fortu, in compagnia di Fortu, delle sue nuove canzoni praticamente, esatto, del esatto. Suo nuovo progetto. Esatto, quello che sta nascendo un po' alla volta, piccoli passi ma fatti bene, piantati per terra, in modo che anche se qualcuno cerca di tirarti giù, che li trovi sempre, ti ancori così alla terra, così non... stai tranquillo. E quando vai a suonare nei concerti fai tutto questo progetto o ti limiti? Allora, per ora sto facendo con un ragazzo, Fabio Poli, che saluto, stiamo facendo ovviamente di fare una cosa sulla storia dei cantautori, andare in giro a proporla, stiamo preparando adesso. Quindi faresti cover? Allora, anche ma presentiamo anche dei canzoni nostre. Sai qual è il problema, Agostino? Che praticamente ormai i locali, se non sono tribute band, non ti fanno neanche avvicinare. So. Sai, è un male che lo dicono tutti i cantanti che vengono qui, ci fanno proprio presente questa cosa. Se tu non proponi qualcosa di conosciuto, non ti prendono. E noi comunque di far cover, sia io che lui, siamo stanchi. Io ho fatto per anni, cioè... Immagino. E quindi abbiamo pensato questa cosa qua, almeno facciamo un po' di canzoni nostre, ma soprattutto anche un po' storie di canzoni tipo fatto di Ivan Graziani, abbiamo fatto Lugano Benissimo. Addio, che è molto bella, Benissimo. Di Vasco, Gianni e Pazza, un po' repertorio che è un po' ricercato. Sì, no, comunque, non le solite cose. No. Però comunque è sempre cover. Ed è comunque sì, ma è un pretesto solo ed esclusivamente per portare le canzoni nostre. Beh, certo. Bisogna tentare da qualche parte. E bello è che molte volte molti musicisti, molti artisti sono bravissimi, insomma, però sono dietro queste cover e in realtà non riescono a esprimere quello che veramente possono. A meno che vai a X Factor e fai cover. Beh, lasciamo perdere questo discorso. E fai cover, vai ad Amici se c'hai l'età e fai cover. Sì. Bello. Andremo avanti a cover, a fare cose degli altri. E però d'altronde sai, Fortu, il discorso è questo. Che possibilità ha un artista emergente a farsi notare? Non esiste. O X Factor e Amici. Certo, sì, ma, non sono gli spettacoli giusti. Però Castrocaro c'è ancora, però. Sanremo, sì, Castrocaro costa 500 euro solo l'iscrizione. È appunto per quello. Poi c'è Sanremo, ma per arrivare a Sanremo c'è una trafila enorme. Se ci arriviamo, parlo anche un po'. Perché PS e Qui sulle nuvole, che è la canzone, non ho mai sentito, l'avevo presentata a Sanremo. Ed è una cosa scandalosa, secondo me. Perché non è più solo questione di musica, è questione proprio di immagine. Certo. È solo, cioè, è questione di immagine. Tanto uno all'anno, cioè uno. ne facciamo tipo i cavalli, ne facciamo uscire 20-30, magari uno ci arriva a 2-3 anni, ci abbiamo sempre ricambio. Però se uno pensa, le tribute band vengono su tutte adesso e fanno tutto il repertorio, ma non fanno, non dico neanche, tanto i nomi si sanno, fanno cose vecchie, stanno sempre venendo fuori. Io quando vado in palestra sento sempre le radio, sono puntate su musica anni 80 e 90, ma non c'era sta cosa. Vuol dire che c'è voglia di un certo tipo di musica che adesso non c'è più, che non è anche la sulla musica dance, secondo me, che non è proprio il mio genere, è tutta un'altra cosa, quella degli anni 90 o degli anni 80 rispetto alle cose che sento adesso. Certo. Beh, se mi permetti, io ci aggiungo anche gli anni 70, ma quelli sono stati gli anni. Sì, vabbè, gli anni 60 dei Beatles. Sì, beh, certo. E sono stati, secondo il mio punto di vista, modestissimo, sono stati gli anni più belli della musica. Insomma, io non ho niente con gli anni 2000, eccetera, eccetera, ma insomma, non c'è paragone, secondo me. Adesso c'è molto computer e poco musicista. O sbaglio? Ma adesso non c'è neanche più il discografico, non c'è neanche più la casa discografica. Non serve niente. Quel computer focus. Non serve, però purtroppo le radio, ma sai, ci sono delle radio, perfino web radio, sì, che non ascolta nessuno, che vogliono soldi per passare il gruppo emergente. Questo forse immagino. È una specie di mafia. Beh, guarda, non dico radio come questa che fanno suonare tutte le sere, che è una specie di manna dal cielo. Infatti, te lo stavo per dire io. Non danno spazio, vogliono soldi. Ma radio che non ascolta nessuno, web radio che non sono FM, vogliono soldi. Ma in che vita? Tutti gli artisti che vengono qua fanno questo commento, soprattutto ma devono farlo sto commento, perché noi siamo orgogliosi di questo, se devo essere sincero. Ma siete una mosca bianca, cioè una cosa è incredibile. Il merito, sai, anche di Alberto Prisco, che ci trova tutti questi artisti, un po' ci do la mano anch'io, poi c'è Maurizio, che e poi c'è Stefano, insomma c'è Michele alla regia, ci diamo il Sergio, ci diamo il cambio per Flavio, per fare appunto che questi live siano piacevoli in acustico, e soprattutto ci sono degli artisti che hanno qualcosa da dire. Certo. Da dire, e quella è una cosa importante. E noi siamo disponibili, perché come radio, come dicevi tu modestamente, siamo forse una delle poche, se non l'unica, qui a Palo. Penso che in tutto il Veneto lo fate suonare sempre, che date spazio. Cioè facciamo cosa. Ascoltare Scusami se, che è il singolo con relativo video e tutto quanto. Ok. Scusami se sono sempre un po' in ritardo, ma ho una sveglia dentro ormai ferma già da un anno. Scusami se sono sempre un po' bambino, invidio le farfalle perché volano lontano. Scusami se grido, ma guarda bene, tremo, ho un alibi di gomma che io gonfio a fiato pieno. Scusami se rido mentre fuori piove, ti senti meno solo se anche Dio sta male. E ancora sai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Non dici mai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Ma forse è normale sentirsi un po' più spenti quando la fiamma cade, ti resta il mal di denti che hai masticato ore di pensieri e libertà dentro una canzone che neanche sentirà. Scusami se sono troppo riflessivo davanti a un bel tramonto, sai che dopo un po' mi annoio. Scusami, è vero che un poco mi rilasso se parli dei tuoi amici e sbadiglio e poi collasso. Scusa, è proprio vero, per un'anima uccido, racconto mille storie di un buffone mai sincero. Scusa, hai ragione, ripetimi il tuo nome, lo scriverò in note perché suona proprio bene. We'll be right back. rossa. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ok, abbiamo sentito il singolo Fortu. Scusami se. Scusami, esatto. Se. Come è nato? Come si è sviluppato l'idea di questo singolo? È nato singolo, questo pezzo? Beh, è stato anche uno dei primi pezzi che mi sono messo a fare. Visto l'andazzo, mi sono reso conto che era uno di quelli più riusciti e di quelli che sono più affezionato io. Il video è venuto fuori perché dopo averlo sentito mi hanno contattato dei ragazzi da Lecce e mi hanno proposto di farmi il video. Ho detto bene, sono andato là 2 giorni in un teatro sperimentale. La canzone è nata come le altre, sul divano, pensieri in testa. A casa tua praticamente? A casa mia, sempre a casa mia, sul divano, nell'angolo est del salotto recording, dove suono. Benissimo, proprio, hai dato proprio una bella immagine, sì, come in questo parco. Momento siamo a casa tua, esatto, nell'angolo est del con vista parco. È nata in un divano, mi ricordo, è nata dal ritornello, ma forse è normale sentirsi un po' più spenti, periodo un po' così. Può capitare. Può capitare. E capiterà ancora. Cioè, no. Se andasse tutto bene non sarei neanche umano, sarei una macchina con l'on e off. E una cosa simpatica è che quando l'ho cantata, quando canto, ma forse è normale, quando ti resta il mal di denti, la cosa vera è che quando l'ho cantata era un sabato notte, il giorno dopo ho avuto un ascesso dentale. Ah. Quando si dice vivere il pezzo, se certo. Uno mi dice che non credo in quello che canto, gli dico no, così. Musicamente non è proprio romantico nel senso positivo del termine, è abbastanza mosso, abbastanza... Ma tendenzialmente io ho tante canzoni, è che... Dopo alla fine vengono apprezzate sempre quelle più romantiche, quelle un po' sognanti, quelle d'amore spopolano, cioè nel senso per tutti. Scusami se a me piace, ah, perché è un riff molto bello, un ritornello molto bello, uno dei primi esperimenti che ho fatto. Qui c'è anche Claudio Corradini che mi ha dato una mano dopo, mettendoci gli archi, che saluto e che ringrazio, anche. Che ringrazio molto per la produzione, per tutto. Ha un po' aggiustato il pezzo. Mi ha un po' aggiustato il pezzo, mi ha sostituito, questo è per i musicisti, mi ha sostituito il suono dei tom e del rullante, per questioni proprio che in radio suona meglio. Io, il mio era tanto scatola, però c'era affezionato la mia scatola. Ho sì. capito. Si affeziona ai propri suoni. Certo, certo. E infatti, che uno ci mette le mani sui propri pezzi è un po' una cosa che ti lascia un po'... Sì, ma se mette le mani nel senso positivo del termine, va bene, insomma. Va bene, però è meglio mettercele prima. Perché quando una cosa è nata, è questa come mio figlio. Ho capito. E l'ho vestito io. Se me lo ci metti te, Mari, ci puoi mettere quello che vuoi. Cioè, Mari è anche più bello. Però ci sono tanto affezionato. È come un paio di scarpe vecchie che metti là, che dici... Ma sono le buche, c'è tutto, però quelle si è affezionato. Ho capito cosa vuoi intendere. Cioè, è sempre abbastanza arduo, abbastanza difficile leggermente squilibrare il discorso, vero? Toccare gli equilibri. È molto difficile, sì. È molto difficile, non è semplice. Infatti i produttori vorrebbero, tu arrivassi da loro, chitarra acustica e voce, in modo che il pezzo venga su. Io che sono megalomane, do questa qua, finita tutta. Forto, ti devo interrompere un attimo perché c'è qualche persona che ti sta salutando. Ce n'è una addirittura dalla Spagna. Si parlava di internazionalità. Maria. Bravissimo. Lo so, sì. Allora, si chiama Maria José Galán, giusto? Sì. Scusa, io non lo so il spagnolo. Comunque dice saluti dalla Spagna, appunto. Che ringrazio te. Di cuore. E c'è anche Silvana. Ringrazio anche lei, Silvana. Silvana molto di salutando. Cuore anche lei, sì. E quindi c'è qualcuno che ti sta ascoltando in tutta Europa. Lo so, ma infatti ho anche gente, cioè c'è anche Olga dalla Spagna che sta lavorando, è un medico di base lei, molto brava. Salutiamo anche Olga. Sì, anche Olga, sì. Ma saluto anche tutti quelli che stanno... Ma sei internazionale tu allora? In Cina, Giappone. In Cina. arriverò anche in Australia perché c'è un mio amico Omar che saluto, non starà mai ascoltando, che però si è trasferito in Australia, una scelta di vita. Ah, ecco. E adesso esporterà il mio verbo anche là, sicuramente. Bene. Tra i canguri. Allora, cosa ascoltiamo adesso? Adesso Chiedimi Dai. È una canzone acustica a cui tengo molto. Quindi la fai dal vivo praticamente? Dal vivo, sì, sì. Esattamente. Chiedimi dai se sono felice quando sento un rumore, la porta si apre e presto il tuo profumo invade le stanze mentre appoggi la borsa sempre troppo pesante. Chiedimi dai se sono felice quando guardo allo specchio e il trucco mi piace e asciughi i tuoi capelli un po' troppo ricci, sbuffi e quel sorriso ti illumina gli occhi. Ho un po' paura, sai, di non essere come vuoi. Dimmi, ci pensi mai? È troppo piccolo il mondo per noi. Vorrei essere sole per poterti scaldare. Vorrei essere la luna per poterti cantare. Vorrei essere la neve che lenta appare in questo autunno argento da raccontare. Chiedimi dai se sono felice quando guardo di notte il tuo corpo che tace e accarezzo in silenzio l'idea di baciarti. Mi avvicino piano e inizio a sfiorarti e disegno nel letto il tuo profilo. Disegno il contorno ascoltando il respiro. Prendo il coraggio, quasi quasi ti sveglio, ma ti lascio dormire immaginando il tuo sogno. Ho un po' paura, sai, di non essere come vuoi. Dimmi, ci pensi mai che il mio sogno in questa stanza qui con noi. Vorrei essere sole per poterti scaldare. Vorrei essere la luna per poterti cantare. Vorrei essere la neve che lenta appare in questo autunno argento da raccontare. Vorrei essere sole per poterti cantare. Vorrei essere la luna per poterti scaldare. Vorrei essere la neve che lenta appare in questo autunno argento da raccontare. Molto bella, Fortu, grazie molto mille. Bella, molto intimista, sì. Chitarra acustica, assolutamente romantica. Questo pop, romantico. Un pezzo pop. E questa, pop. Come dicevo su romantico prima, mi preferiscono se sono romantico, se canto alla luna, all'acqua, se non mi ricordo le parole. Comunque, diciamo, la gente, chi mi segue preferisce tanto su queste cose qua. Piacciono anche a me, ma bisogna sempre variare, ma sì, prendi anche il rock, seriamente. Però il rock è fonte di tutto, eh. Esatto, il rock. Il rock è fonte di tutto, poi il rock si diventa anche romantico, perfetto. Certo, l'importante è cercare un proprio stile, perché è ovvio che alla fine tutti siamo influenzati da quello che abbiamo ascoltato per anni. Certo. Cioè, tu cosa hai sentito per anni, escludendo Vasco e Lucio? I Beatles, i Rolling Stone, De Gregori, After Hour, Marlene Kanz. Quindi gli indie rock italiani. Sì, c'è stato un periodo, ma tutti ci passano, che si ascolta l'indie e dici, e sei anche molto puro, dici sta roba pop. Beh, per fortuna mi ha durato poco. Ah, ho capito. No, a me piace, però si sono tanto ghettizzati per i fatti loro, cioè, e vogliono anche star là. Ormai è diventato un marchio di fabbrica, sì. Su certe cose, anche dopo se magari si sono più melodici di Albano, però ci mettono quel fase, quel distorsore. Ma però gli After House hanno dei pezzi melodici, ma gli After House sono fenomenali, certo, secondo me. Agnelli è un grande, sì, dentro anche Godano, però non è poco. Non i primi dischi a me piacevano tantissimo. Dopo hanno cominciato a fare, perché a me, quando fanno le paranoie esistenziali, dicono sì, la vita, la morte. Ho sentito Godano su un'altra radio. Sì. Ma lui è così. Sì, lui è così, cioè ha era bello aspetta. Quando faceva Sonica nuotando nell'aria, cioè che era ispirato dai Sonic Youth, certo. Però uno si ispira sempre, però là era bello rock. Adesso anche, a me quando sono troppo intellettuali, sai, lo so, può capitare. Piace. Ha fatto non anche Impressioni di settembre, molto bene, però Godano qui Marenne. Preferisco quella di Francesco Denga. Bene, ok, siamo due pareri diversi. Sono sincero, sono sincero. Conosco quella di Francesco Renga. Sono le 22, questo è sempre il Blu Radio Veneto, questo è sempre il programma Blu Radio Sera con Agostino Spolaore e con Maurizio Calzavara, che stiamo scoprendo, questo cantante simpaticissimo, è un caro amico, si chiama Fortu. Ci ascoltiamo qualcosa dal disco? Sì, PS. PS. Chiuso nel buio di una soffitta, tra vecchi giornali e aerei di carta e chili di polvere a coprire i ricordi di quaderni chiusi e poi mai riaperti. C'è scritto da grande, non farò il calciatore né l'astronauta, ma solo il sognatore. E sotto il disegno della rossa chitarra, la mia prima canzone, forse un po' acerba. E rivedo gli occhi di quella ragazza, risento il profumo sì dell'ultima volta, e i sensi di colpa messi a dormire. Sarà per sempre, dillo fino al mattino. Che all'alba sono stelle filanti, d'estate gli amori sono come aquiloni che perdono il filo senza saper volare. Ma oggi si cambia, oggi rivoluzione, o forse domani che magari c'è il sole. E penso che in fondo non saremo eroi, ma lo senti il vento, fischia solo per noi. E rivedo gli occhi di quella ragazza, risento il profumo sì dell'ultima volta, quando di notte non riuscivi a dormire e la mia voce accompagnava le ore. E rivedo gli occhi di quella ragazza in una lettera poi mai spedita, e quell'inchiostro blu non scompare, di essere ricordi per te ero l'amore. E fiera sfidavi il mondo a fatti cadere. E rivedo gli occhi di quella ragazza in una lettera poi mai spedita, e quell'inchiostro blu non scompare, di essere ricordi per te ero Sera. Blu Radio Sera. Ok, questo era il pezzo che avevi portato a Sanremo Lab. A Sanremo Lab. Che poi per motivo diverso non è stato capito, però tu bellissima città, bel clima, belle ragazze, tutto bello. Tutto bello. Tranne il concorso. Il concorso, beh, cose che capitano. Tranne il concorso, una bella bomba alla commissione artistica. Vabbè, dai. Vabbè, parliamo del libro allora. Parliamo del libro. Ecco qua, questa è una novità assoluta. Ecco qua, se vuoi. Sì, questo ecco è, qua. Questo è la telecamera. È una sorpresa, mi è arrivato oggi. E l'hai scritto te. E l'ho scritto io. Ce lo fai rivedere, Maurizio? Ecco qua. Allora, aspetta, più basso, così lo vedono. Più di qua. Di qua. Ecco qui. Giralo un po'. Giralo così? Un po'. Ecco, così, così. Perfetto. Un libricino tascabile. Cosa si intitola il libro? Sì, Una notte a frugare nei miei pensieri. Praticamente, anche adesso, dopo PS, perché. Perché faccio sta cosa? Me lo sono fatto da solo, ovviamente, puro stile mio. Dopo musica fatta in casa, libro fatto in casa. Perché io sono proprio, anche PS parla di ricordi, di nostalgia, di cose del genere. Io una notte ho pensato di raccogliere i miei pensieri degli ultimi anni, tutto quello che mi è successo, anche cose molto vecchie. adesso ci danno la possibilità, vedi, musica fatta in casa. Io ho fatto sta cosa qua, mi è arrivato proprio stamattina, e è una cosa a cui sono molto legato, perché c'è la mia vita degli ultimi 4 anni con, parlando di come sono finiti Renoir, delle mie canzoni, sì, spiegando, certo, canzoni, ed è una cosa che ci tengo molto. Bene, è una cosa questo, molto positiva. Sì, è arrivato, questo è il giardino di casa mia, questo è il mio cane, dopo ci vado molto fiero. Perfetto. Guarda che bello. Ok. E andiamo avanti con la andiamo avanti. Allora, dopo di questo pezzo, abbiamo sentito... Cosa vuoi far sentire un pezzo live adesso? Sì, sì. Facciamo... Mary fa l'amore. Aspetta, ti porto i saluti di Laura. Dice che sei grande. E ringrazio Laura. Blu Radio Veneto, il Veneto come non l'hai mai sentito. Svelte corrono le auto lungo il mare, poche luci nelle strade, due lampioni ed un cane. Mary in piedi non ascolta, no, non parla, sembra solo una farfalla che in silenzio poi ti aspetta. All'improvviso poi balla, un sorriso ti ammaglia, copri i sensi di colpa con un vestito chiaro, con un vestito chiaro. In questa notte che passa, in questa notte che inganna, in questa notte che sembra non voler finire, Mary fa l'amore. Anche se poi sta male, Mary fa l'amore. Anche se poi sta male, male. Nella borsa poche lire ed uno smalto, e un profumo che al mattino si confonde con l'asfalto. Saprà essere regina di una stanza, saprà piangere ridendo mentre guarda una finestra. In questa notte che passa, in questa notte che inganna, in questa notte che sembra non voler finire, Mary fa l'amore. Anche se poi sta male, Mary fa l'amore. Anche se poi sta male, male, male, male. E la vedi arrivare nelle sere d'estate, quando i grilli ricordano che i sogni si allungano. Sola in disparte, a mimare canzoni, sempre quelle facce, sempre quei rumori. E l'erba non cresce, ma un fiore resiste, poche ore e si va. E c'era con il giorno svanirà. Mary fa l'amore, anche se poi sta male, brucia quel sapore. Mele acerbe e miele, Mary fa l'amore, anche se poi sta male, e brucia quel sapore. Di mele acerbe e miele, e Mary fa l'amore. Stai andando fortissimo, anzi benissimo, Fortu. Bello, bravo e simpatico. Aspetta, complimenti. Faccio una cosa. Questa cosa è simbolo di professionalità. Lo fanno tutti. Mai capito perché, ma lo faccio anche io, sono in radio. Comunque. Si è sentito, spero. Sì, sì, ma sì. Come no? Da professionalità a tutta questa cosa. Certo, si è sentito e come? Decisamente. Non so se sei d'accordo, cantino. Agostino, è una canzone che si può cantare in gruppo, questa. Sì, qua. Sì, sì, senz'altro. Sì, a me piace questa cosa. La classica canzone. Ma non è che io, una cosa, non mi ci metto a fare, cioè, tu hai scritto ritornelli che ti entrano, è vero. Ma non è che mi ci metta a fare, non è che dica adesso io quello che mi sento di fare faccio, non è che mi metto con la chitarra adesso facciamo una canzone, è quando ho qualcosa allora prendo la chitarra, se no magari scrivo qualcosa, ma a volte me ne vengono anche 3-4, ma ce ne ho ferme da mesi, anche alcune da anni. Quando ho voglia di registrare lo faccio, è anche il bello di fare musica fatta in casa e da soli. Certo, è una cosa da molto dove positiva. Trovi l'ispirazione di solito? Dalla mia vita. Dalla tua vita. Solo la mia vita. E le persone che comunque ne fanno parte, ne faranno parte, e anche che hanno fatto parte in passato, sono molto nostalgico, cioè proprio io, di natura. Quindi sono molto intime le tue canzoni. Sì. Anche magari quelle più rock, perché ne ho tante, che effettivamente c'ho anche molto più tipo romantico, però le farò anche sentire. Non hai paura però di aprirti troppo, cioè di far scoprire troppo la tua anima, insomma. E secondo me sai qual è il problema di tanti che non lo fanno? Io non ho vergogna di niente. No, no, no, ma non è questione di vergogna, dico solo, magari sei uno, qualcuno un po'. No, magari. No, ma se mi viene da piangere, cioè, se dico anche sulle cose che scrivo su Facebook, quelle cose là, se mi viene da piangere una notte così, mi viene da piangere, lo scrivo, cioè. Non ho. Uno è uomo, soprattutto se ha dei limiti, non solo se è Superman. Cioè, uno potrebbe fare, molta gente che sbaglia, soprattutto i musicisti nuovi. Io mi ricordo anche sulle pagine di altre persone che uno mettevano compra sto disco, compra quell'altro, fai questo, fai quello, e mi ricordo una ragazza che aveva scritto sì, ma tu ci dici solo di comprare, vorremmo sapere qualcosa di te. Ecco, io sono l'opposto, certo, certo. non sono un gran venditore, io, sono sincero. Io salgo sul carro tuo perché modestamente nel mio piccolo sono anch'io come te. Quindi bisogna farsi vedere. Io sono così umile. Se così ti apprezzano, sei. Ti apprezzano. Bravissimo. Se non ti apprezzano, se ne stanno anche. Bravissimo. Bravissimo. Parlo nella vita in generale. Sì. Allora, facciamo ascoltare qualcosa del sì, disco. Sì. Vuoi qui dire sulle qualcosa? Nuvole, sì. È una canzone nuova. Questa l'avevo presentata anche questa a Sanremo Lab. Scartata anche questa. Questa è troppo rock. Io. Ma si può, si può ripresentare sotto un'altra versione? Sì, sempre che non arrivo col mitra. Io okay, lei mai, aspetta, l'hai mai proposta questa canzone? No, no, zero. È la prima volta che la sentono, chi la sta ascoltando. E farà contenti, sì, farà contenti chi ama il rock, perché sono un brano rock. È un'esclusiva di Blu Radio Veneto, allora. Esatto, sì, sì. Wow, che notizia buonissima. Cioè, un'ora e mezza qua, devo quasi dire qualcosa. Allora, grazie a Forte che ci fa ascoltare per la prima volta questa Qui sulle nuvole. Cerca qualcosa, dammi una medicina per calmare l'attesa. Certo bevo, forse fumo un po' troppo, ma il mio vizio è la noia e ci gioco se spesso. E perdo sempre, manco forse in TV, forse il rimedio sei tu. Tu sulle nuvole mi dici vieni a fare un giro, sale semplice. Io chiudo gli occhi, batto il cuore, inizio a correre. Con tutto il mondo che mi guarda e sembra ridere, perché ho bisogno di qualcosa in cui credere. E l'amore è la gran bella domanda, la chiuso in un cassetto. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Blu Radio. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, qui si aggiungono le persone che ti stanno salutando, ti porta un bravo con tantissimi O e tantissimi U per Fortu, ed è la Olga che ti saluta. Olga è l'altra spagnola, sta qua. Olga Perez, che esatto, che spagnola. Io non lo so spagnolo. Sì, sì. E manco poi, io. E poi c'è Christian che dice: ciao Forto, qui è Chris, un grande saluto ed un grazie a tutta Blu Radio Veneto che ci sta regalando tutto questo. Ringrazio Christian, che è tra l'altro la persona, se quello che penso, che mi ha fatto la copertina di Scusami Se delle due mani, che ringrazio, penso sia lui, sì. Se vuoi ti dico il cognome. No, è lui, sì, penso sia lui. Ciao Christian, anche da parte di tutta Blu Radio Veneto, ovviamente. Ok, non è propriamente, sì, è un pezzo rock, ma un rock molto orecchiabile. È un rock mio, è un dialogo con il classico strizza cervelli. Emergenza, bisogno, dottore. Sono delle domande e alla fine la voglia di scappare che c'è sempre. Non hai, cioè, ci sono delle mattine che ti svegli che hai voglia di andare via, hai capito? E dopo ci sono delle domande tipo se mi stanco di tutto e poi quel tutto mi manca. Ah, ho capito. Sono cose, sono dei controsensi, delle cose e sono fatto così. Cioè, a volte vorresti, ho sentito l'altra volta che a volte vorresti prendere e scappare con lo zaino in spalla, a volte te ne stai a vedere un buttato sul divano, ti lasci che tutto ti scivoli addosso e ti guardi un documentario di Discovery Channel, quelle cose, e stai in catalessi così. Sono quei controsensi. Avevo scritto sull'accoppiamento delle lucertole, su una cosa che avevo scritto. Stai così, insomma. Complimenti anche da parte di Susanna, che non ti conosceva, ma dice: è proprio bravo, è semplice ma bravo. Grazie, ringrazio Susanna. Gran belle persone queste qua. Ottimi gusti musicali. Ok, 22, pardon, è 18. Facciamo un pezzo live, cosa dici? In scaletta c'è un pezzo live adesso oppure no? Ma cosa avevi deciso? Cosa avevi deciso di fare? A me piace, avrebbe piaciuto far sentire il monologo. Allora, Che la traccia, che dura due minuti. È che la traccia numero 1 e 2. 2. Ah, la traccia numero 2, il monologo. Cosa parla di questo monologo? Questo è il più tardi possibile, fra 100 anni, quando sarò nell'aldilà. Io voglio sulla lapide le frasi di sta cosa, perché è il mio credo. Okay. Cioè quello in cui credo nella vita. Mi hanno detto che devo imparare a ridere, a essere felice, a farmi da mangiare e a dormire. Il tutto con moderazione, senza esagerare, senza far rumore. Perché se sveglio la mia coscienza, quella mi verrà a cercare. E son cazzi. Mi hanno detto che ognuno di noi ha quel che dà, ok? Vuol dire che avanzo qualcosa, senza sapere cos'è. Ma so che è lì fuori, da qualche parte, e andrò a prendermela prima o poi. Mi hanno detto che le botte di culo servono, sì, ma anche le botte e basta vanno prese incassate. Perché a farti crescere, ragazzo, sono quelle che ricevi, non quelle che dai. E i lividi vanno colorati, per non dimenticarli mai. E bisogna allenarsi a cadere, perché solo così ci si potrà rialzare. E mi raccomando, senza farsi aiutare, perché è da soli che ce la dobbiamo fare. Perché mica gli altri ti stanno ad aspettare. E resteremo immobili come rocce sotto la tempesta, ma col sole in fronte correremo sempre più veloci come un'onda che travolge quel che tocca. E poco importa se mai impareremo a volare, del resto cosa ce ne frega del cielo, è qui, proprio qui, che vogliamo stare. Ieri giovani, domani uomini, ma oggi in cerca perenne di un brivido che tutto possa cambiare, che valga una stagione, o al limite di un manuale di distruzione, perché una vita intera è troppo lunga e un secondo, quello giusto, ci può bastare. O al limite datemi gli occhi di un bambino, che il mondo sa ancora guardare, che il mondo sa ancora ascoltare. Forse sono un pazzo, ma ho soltanto capito che anche se non ho vinto, almeno non ho mai mollato, non ho solamente partecipato. E adesso a te che mi dirai non sai nessuno, ricordati, io un nome sarò e saprò sempre chi sono. E se amare è un reato, tu condannami pure, perché è il mio unico peccato. Eh già, perché mi ha anche detto che sognare è vietato. E da allora lo giuro, non mi sono più svegliato. Ok, abbiamo sentito, ti sei proprio messo a nudo, sì. Assolutamente a nudo, lentamente, esatto. Poi la musica è cominciata a pulsare, una commistione totale tra musica e parole. Esatto, perché è così che deve essere, sono parole. Mi hanno detto che sognare è un reato e da allora lo giuro, non mi sono più svegliato. Ah, ho capito, benissimo. 22:20, Agostino, abbiamo deciso un pezzo live subito. Abbiamo deciso un pezzo live subito. Sì. cosa dici? Vabbè, cosa hai deciso, Fortu? Il coccodrillo si chiama. Ok. Blu Radio Veneto, il Veneto come non l'hai mai sentito. Ho un coccodrillo chiuso nel giardino, dagli occhi dolci e un po' piccolino. Si muove lento, sorridendo a un mondo che lo osserva di nascosto. Dietro il cancello, voci di un bambino. Mamma, guarda, c'è un animale nuovo. Il coccodrillo ascolta, è curioso, si avvicina piano piano. Non credi che in fondo siano solo disegni diversi di un'unica mano. Racconto favole in blu che durano 3 minuti e più, ma in quel continua che sogni tu. Mi chiamo Marco, vieni più vicino. Hai un viso buffo ed un vestito strano e senza paura vuole accarezzare questo suo amico così speciale. Ma svelta la madre, gli leva la mano e se lo porta via lontano, lontano. Lui resta in silenzio e saluta quel mondo che lo tiene ben nascosto. Non credi che in fondo siano solo disegni diversi di un'unica mano. Racconto favole in blu che durano 3 minuti e più, e in quel continua che sogni tu. E dal basso quanto è grande la città, sembra immobile, la gente viene e va. Come al solito un inchino lui farà, ma nessuno la lacrima vedrà, ma nessuno la lacrima vedrà. Ok, qui hai giocato col falsetto un pochettino, forse. Sì. E il falsetto è una bella cosa, a me è sempre entusiasmato il falsetto, però è difficile il falsetto, non è semplice. Pressoché impossibile da fare così. Esattamente. Infatti però, quando l'ho fatto ci ho perso anche abbastanza tempo. Però è accattivante fare il falsetto, è difficile, però c'è un certo fascino a mio parere. Comunque è una palla, non ci ho perso tempo. Io faccio buona la prima sempre. Vabbè. volevo darmi un tono oltre a fare. Volevi darti un tono. Un tono. Sono le 22:23, abbiamo quasi finito. Forte, questa bella cavalcata. È volata. Mi sono molto divertito. Aspetta, veramente. Aspetta, dove vai? C'è una richiesta. C'è una richiesta. Qui stanno insistendo perché tu faccia la tua prima canzone. Non ce la fai sentire? Punto di domanda? No. No. Come mai? È perché mancano 5 minuti e facciamo la prossima canzone. È per questione di tempo. È colpa. Puoi fare un piccolo riff della tua prima canzone. Dai, vabbè. Un piccolo riff, dai. Sferico suono, dici le ore. Sferica onda, dai, non ti fermare. Sferico suono che scandisci le ore. Ed io se vorrei poterti sfiorare. In questa notte che non ha mai fine, tra questa sabbia che ha il tuo sapore, mentre la luna brucia del tuo calore. E poi dimmi perché l'aria sa sempre di te. Abbiamo accontentato con un piccolo riff. Adesso accontentiamo me, soprattutto. Esatto. C'è un motivo che mi piace tanto. E io ho scelto, secondo me, una canzone perfetta in queste canzoni che abbiamo sentito. E la traccia numero, cioè la traccia, il pezzo che ho sentito, che è la Luna, e Luna è fuori, fuori piove. Che è la, secondo me è una canzone perfetta che tu hai creato. È una canzone... A me piaceva molto, l'ho sentito un sacco di volte, l'abbiamo messa nelle nostre programmazioni. E bella, squisitamente bella dall'inizio alla fine. È una canzone notturna che è nata a luna di notte, fuori pioveva, finita in giro per l'Italia, perché era un periodo che giravo. E qui dentro è come per il monologo, ci sono io. Tu, anche tutte sono vere, ma questa in maniera proprio particolare. Se possiamo dire più vera delle altre. Se... Più sentita. E non più vera, chiaramente. Queste le parole sono uscite, la musica, le parole sono uscite. Cioè proprio, quando non è che mi ci mettevo, arrivavano. Non ho mai detto devo finire sta canzone, arrivava. 30 secondi per dire se hai qualche concerto da fare qui vicino adesso. Per ora concerti no. Con l'anno nuovo, col disco, con tutto quanto arriveranno, anche questa cosa dei cantautori. Comunque suonare è la cosa che mi piace di più. Ci avvertirai chiaramente. Certo, ovviamente. Siamo qui. 5 secondi per dirti che Franci ti dice Fortu sei unico. E ringrazio Franci di cuore. Hai avuto un buon seguito. Che belle queste ragazze. Sì, tutte bellissime, tra l'altra cosa. Allora, noi ci salutiamo qui, lasciamo lo spazio quindi a Fortu per suonare la sua ultima canzone. Lo ringraziamo di essere venuto qui. No, sono io che ringrazio voi di cuore. Come ho detto, sono trasmissioni così, ce ne vorrebbero sempre. Per far conoscere musica di chi come me è nessuno. Perché a far suonare Vasco Rossi, gli altri sono bravi tutti. A far suonare gente come me non sono bravi tutti. Gente cattiva è Monella. Vabbè, comunque a me ha fatto piacere conoscerti, così pure Maurizio. E ringrazio anche Chiara. Anche Chiara che ci ha fatto le foto. Noi restiamo in contatto, ovviamente, certo. Cioè abbiamo tutti i nostri contatti disponibili. Ti aspettiamo per allora la prossima volta. Volete. E diamo l'appuntamento, per quel che mi riguarda, a giovedì della settimana prossima. Avremo qualcosa di molto particolare, lo annunciamo già. Maurizio, cosa dici? Sì, avremo un progetto che finalmente è andato in porto dopo tanti anni. Sono riuscito a portarlo in porto quest'anno. E dedicare una serata, la prima serata, ne faremo due, alle canzoni di Natale. Non quelle tradizionali, state attenti, non quelle tradizionali, riviste corrette da quattro ragazze. Diciamo che i nomi? Sì, puoi dirle, dai. Anna Tosato, Claudia Ferronato, Alessandra Pascali e Rita Muro, che sono quattro voci stupende, sono tra le più belle voci di Padova, quindi avremo modo di conoscere meglio, insomma, di sentirle. Fortu, grazie. Grazie a voi. Buonasera da Radio Veneto, buonasera da Agostino Spolaore e da Maurizio Cazzavalli. Grazie. Grazie Fortu. Questa luna è fuori piove. Luna è fuori piove, non hai voglia di dormire, solo film in bianco e nero e nessun amico in giro. E il sangue ti ribolle e non te lo sai spiegare, o forse non lo vuoi capire. Cerchi di scappare senza sapere dove, e a spingere il pedale è il fuoco nelle vene. Ma la strada ti conosce e non ti fa sbandare, anche se a sedurti spesso un cuore ad ore. Dalle casse arriva allenta una canzone, e un DJ bastardo no, non smette di parlare, e quasi ti sorprendi ad alzare il volume, così il mondo fuori scompare. E aspetti il ritornello per cantare a squarciagola, aspetti un giorno nuovo per dire oggi gira. Ma cosa ti rimane di una stella che poi cade? In fondo tutto resta uguale, in fondo tutto resta uguale. E luna è fuori piove, questa voglia di volare è solo fame chimica, un salto senza fine. È solo quel bisogno che è di essere te stesso, ora un po' più vivo, domani un po' più perso. Ti fermi ad aspettare ancora un treno che non passa, in un binario vuoto bestemmi e chiedi cosa ci resta. E pensi per un attimo di avere la risposta, ma in tasca hai un biglietto aperto per un'altra corsa. Ma forse quel che dico, o forse quel che penso, è come un fiammifero che scalda il cielo d'agosto. Butti un po' di vita davanti a un albero di mele, mentre l'alba distratta scompare. Gridando fa lo stesso, tu lo sai quello che hai perso, e quasi ti convinci che ogni sogno ha il suo prezzo. E scrivi un bel finale da poter poi raccontare, e inventi un lieto fine, così almeno puoi sognare.